Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. A Parigi la cerimonia per le vittime della strage. Hollande dice: risponderemo cantando più canzoni, andando ai concerti e agli stadi, e colpiremo l'ISIS senza pietà. Secondo il tabloid tedesco Bild, le armi della strage sarebbero arrivate dalla Germania. Dopo l'abbattimento del jet russo, la Turchia ferma i voli militari sulla Siria. Erdogan e Putin si sarebbero sentiti al telefono, non ancora chiaro se si incontreranno. Le forti piogge investono la Sicilia, un masso si stacca da un monte sopra Mondello, investe una casa, morta una donna di 88 anni. Ancora polemiche sul ministro Poletti, che ha detto che è meglio laurearsi presto, magari con voti più bassi. Non ho mai pensato che i giovani siano bamboccioni, dice oggi lui. Sicignano, il pensionato che ha sparato ad un ladro e l'ha ucciso a Vaprio d'Adda, sarà candidato di Forza Italia in consiglio comunale. Una buona giornata da Simone Spezia e bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti effettogiorno@radio24.it e come sempre il numero di WhatsApp è il 349-238-6666, che vale ovviamente come sempre per tutta la radio. Scriveteci per domande, richieste di informazioni, quello che volete. In apertura andiamo in Francia per la cerimonia in ricordo delle vittime degli attentati di Parigi che si è svolta questa mattina, una cerimonia toccante, tra l'altro dalla lettura dei nomi delle vittime. Sentiamo. Una Francia solenne ma commossa ha reso omaggio alle 130 vittime degli attentati del 13 novembre nel cortile dell'Hôtel des Invalides a Parigi. I francesi hanno partecipato spiegando bandiere nazionali alle finestre. Caroline Prénat, Valeria Solesine. Sono stati letti i nomi di tutte le vittime, fra loro anche Valeria Solesine. Poi ha parlato il presidente francese François Hollande. Je sais que cette génération tiendra solidement. Questa generazione, ha detto Hollande, è diventata il volto della Repubblica. E l'omaggio delle vittime è diventato l'omaggio a un'intera generazione, quella della sala da concerti del Bataclan. Le vittime, infatti, avevano un'età media di 35 anni. Poi le parole hanno lasciato spazio alle note della Marsigliese. Davanti a Hollande, i parenti delle vittime e dei feriti. Con alcune eccezioni, alcuni parenti delle persone uccise hanno deciso di boicottare la cerimonia, accusando il governo di non aver agito con sufficiente fermezza dopo la prima ondata di attentati a Parigi, a gennaio scorso, nella redazione di Charlie Hebdo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo al fronte della lotta al terrorismo in Europa. Ci sarebbe stato un nuovo arresto in Germania. Sono state rilasciate alle 4.30 di questa mattina le due persone fermate ieri a Berlino perché sospettate di preparare un atto di grave violenza. Lo ha fatto sapere la polizia tedesca. I due sospettati erano stati individuati a bordo di un'auto nel quartiere di Neukölln. Sul veicolo era stato rinvenuto un oggetto ritenuto inizialmente sospetto che ha fatto scattare un allarme tale da far evacuare 16 palazzi in tutta l'area circostante. Dalle ispezioni però non è emerso nulla. Secondo notizie non confermate dalla polizia, i due erano sospettati della preparazione di un attentato a Dortmund, nell'ovest della Germania. Intanto a Stoccarda, nella Germania meridionale, un uomo è stato arrestato perché è sospettato di aver venduto armi agli attentatori di Parigi. E quanto scrive il quotidiano tedesco Bild, secondo cui il fermato, che ha origini arabe, avrebbe venduto online due Kalashnikov fabbricati in Cina e altri due fucili d'assalto prodotti nell'ex Jugoslavia. Dalle email del sospettato si evince inoltre che l'uomo era in contatto con un non meglio definito arabo a Parigi. Intanto a poco torna la normalità, la vita a Bruxelles. Da oggi hanno aperto i mercatini di Natale in un centro rimasto blindato per giorni. I centri commerciali saranno tutti aperti normalmente questo fine settimana, anche scuole e metro, riaperte da mercoledì, riprenderanno attività e orari normali da lunedì. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il lato italiano si compone soprattutto delle dichiarazioni di ieri del ministro Orlando, nelle quali parla dei maggiori poteri e possibilità di intercettazione, anche del sistema di comunicazione, di chat interno della PlayStation 4. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, Simone, allarme terrorismo, ci saranno intercettazioni anche su chat PlayStation, a dirlo il ministro della giustizia ieri Andrea Orlando, contro gli scambi tra terroristi con le nuove tecnologie più traduttori, ci sarà anche l'aumento dei finanziamenti che si possono fare nel settore della giustizia, il governo spenderà 150 milioni di euro, il doppio rispetto a quanto preventivato nel settore dell'informatica, nelle attività di potenziamento che è stata programmata c'è anche l'integrazione degli organici di tribunali e procure, altri 500 addetti provenienti dalle amministrazioni pubbliche e delle province entro la fine del mese entreranno in servizio. È una sfida anche lo scambio di informazioni, dice Orlando, lo studio attento e la comprensione, e per questo c'è anche molta valorizzazione del lavoro svolto dagli interpreti e dai mediatori culturali nelle carceri. Nel frattempo l'imam di Firenze, presidente delle comunità islamiche italiane Izzedin El-Sir, promette di portare a Roma 1000 imam per farli giurare sulla Costituzione e cantare l'inno di Mameli. A te, Simone. E grazie Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. E rimaniamo sul tema della lotta all'ISIS, ma la lotta all'ISIS sul suo terreno, in Siria e in Iraq. Sembra allentarsi la tensione tra Turchia e Russia. Ci sarebbe stata una telefonata tra Erdogan e Putin, mentre Ankara ha fermato i voli sulla Siria. Sentiamo i servizi. Mentre continua il battibecco tra Mosca ed Ankara su chi ha chiamato e chi non ha risposto al telefono dopo l'abbattimento dell'aereo militare russo, sul campo la tensione si allenta a vantaggio dello Stato islamico, se è vero, come afferma il quotidiano turco Hurriyet, che la Turchia ha sospeso i voli sulla Siria nell'ambito della coalizione a guida statunitense e che la Russia sta facendo altrettanto, almeno nei pressi del confine turco. I russi hanno anche sospeso la partecipazione della loro marina militare alle esercitazioni di Black Sea Four, il gruppo di cooperazione degli stati rivieraschi del Mar Nero, di cui fa parte anche la Turchia. Dalle colonne del quotidiano britannico Times, il premier turco Davutoglu assicura che l'abbattimento del jet non è stata un'azione contro un paese specifico. Era un velivolo sconosciuto sul nostro spazio aereo, ha affermato. Abbiamo reagito secondo le regole di ingaggio e continueremo a farlo. Intanto, 50 imprenditori turchi sono stati arrestati per irregolarità nel visto di ingresso in Russia. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nervi tesi in Turchia anche sul fronte interno nel mezzo della crisi con la Russia. Ieri è scattato l'arresto di due giornalisti del quotidiano dell'opposizione laica Cumhuriyet, il direttore Can Dündar e il capo della redazione di Ankara Erdem Gül, accusati di spionaggio e di far parte di un'organizzazione terroristica che farebbe capo a Fethullah Gülen, atto condannato oggi dall'ambasciata americana. Erdogan stesso aveva avvertito Dündar di rischiare di pagare un caro prezzo se la sua inchiesta sui camion che avrebbero trasportato armi dalla Turchia alla Siria si fosse rivelata infondata. Pochi giorni fa il presidente è tornato a definire l'inchiesta un tradimento. Nel frattempo lo scontro con Putin rischia di avere conseguenze gravi sul versante economico. Così gli indici pubblicati oggi dall'Istituto di Statistica turco, che mostrano un aumento della fiducia della popolazione nell'economia, hanno un sapore quasi beffardo. Mosca, tra i primi partner commerciali della Turchia e per esempio terza nazione per immobili acquistati nel paese della mezzaluna, potrebbe voltare le spalle ad Ankara. La brusca frenata al turismo russo, importantissimo per la Turchia, è solo uno dei primi segnali. I possibili effetti preoccupano le imprese, potrebbero investire il settore energetico, visto che Ankara non solo dipende dai rifornimenti russi, ma rischia anche di veder saltare il progetto Turkish Stream, la linea di distribuzione di gas naturale che doveva passare proprio per la Turchia. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. Su tutti i temi, quello militare e quello del terrorismo, torneremo più avanti nel corso della trasmissione, tanto nella seconda parte quanto nella terza. Intanto ci spostiamo in Africa per la visita del Papa e ci colleghiamo con l'inviato del Sole 24 Ore, Carlo Marroni. Carlo, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Sì, grazie, buongiorno a voi. Che giornata e che mattinata è stata quella di oggi? Molto intensa. Il Papa tra circa 20 minuti parte con tutto, diciamo, il seguito per Kampala, la capitale dell'Uganda, un'ora e mezzo di volo. Quindi la giornata, diciamo, i due giorni e mezzo, quasi due giorni di Kenya se ne sono conclusi. Oggi ve l'ho detto, è stato il clou, perché ha fatto due cose importanti. Ha visitato una baraccopoli, qui in Kenya ce ne sono tantissime, il 60% dei kenyoti vive nelle baraccopoli, quindi, diciamo, è un fenomeno tragico e allo stesso tempo molto diffuso, dove ha detto i valori che vivete qua non sono valori quotati in borsa, sono valori importanti che dovete condividere. Poi lo stadio 70.000 persone, dove ha accantonato il discorso scritto e ha parlato a braccio lungamente, più di mezz'ora, e ha parlato, e lì la cosa forte è che ha parlato contro la corruzione. Il Papa spessissimo ha parlato contro la corruzione, però oggi nel lungo discorso ha detto una corruzione che c'è anche in Vaticano, quindi ha detto anche da noi nelle istituzioni bisogna battere e combattere la corruzione che distrugge i popoli, distrugge le persone e non lascia spazio alla crescita equilibrata. Quindi un discorso molto forte, ha detto anche che bisogna fare in modo, attraverso il lavoro, la casa e la terra, che i giovani trovino una speranza e non siano reclutati dai gruppi terroristici. Per ora Da Kenya è tutto, a voi la linea. E grazie a Carlo Marroni, inviato del Sole 24 Ore in Africa, a seguire la visita del Papa in Kenya nella fattispecie. Cambiamo argomento, andiamo ai dati economici dall'Italia. Aumenta la fiducia dei consumatori, mentre c'è stata una buona asta di BTP questa mattina. Un futuro più rosa, così lo vedono consumatori e imprese, visto che l'indice di fiducia dei primi è cresciuto al livello più alto mai registrato dall'inizio delle serie storiche oltre 20 anni fa, e delle seconde è sì stazionario, ma comunque resta sempre ai livelli più alti dall'inizio della crisi. Sono dati, puntualizza giustamente l'Istat, raccolti in gran parte nella prima metà del mese di novembre e che dunque non possono risentire degli effetti degli attentati di Parigi, se non in minima parte. Per capire quale portata avranno avuto, occorrerà infatti aspettare l'indice di fiducia di dicembre. Per ora sono dunque dati che confermano l'onda lunga dei primi segnali di ripresa della domanda interna. In particolare migliorano le stime sia dei giudizi sia delle attese sull'attuale situazione economica del paese, diminuiscono le attese di disoccupazione. Numeri che, afferma il Codacons, fanno ben sperare sul fronte dei consumi di Natale, che per la prima volta in 8 anni potrebbero finalmente tornare a registrare segno positivo. Intanto c'è un altro record da registrare oggi, quello minimo del tasso del BTP a 5 anni venduto oggi in asta per 2,5 miliardi di euro allo 0,37%. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Ancora polemiche sul ministro Poletti dopo le sue dichiarazioni sui laureati. Non ho mai pensato che i giovani italiani siano dei bamboccioni, anzi continuo ad avere molta fiducia in loro e penso anche che laurearsi presto e con buoni voti sia un'ottima cosa. Il ministro Poletti oggi precisa così il senso del suo ragionamento, che ieri aveva sollevato qualche polemica. Prendere 110 e lode a 28 anni non serve a un fico, è meglio prendere 97 a 21, aveva detto, senza troppi giri di parole, il responsabile del welfare, spiegando che i nostri laureati arrivano troppo tardi sul mercato del lavoro e questo li penalizza quando si trovano a competere con ragazzi di altre nazioni. Un'analisi confermata dai dati del Ministero dell'Istruzione, secondo i quali solo 3 giovani su 10 in Italia, fra quelli che frequentano corsi triennali, riescono a laurearsi entro i 23 anni, mentre tutti gli altri ci mettono più tempo. C'è la necessità di aprire un confronto serio su questi temi per modernizzare il paese, aggiunge Poletti, che parlando di sé oggi spiega di aver dovuto interrompere gli studi universitari per dedicarsi al lavoro e alla famiglia, una scelta che il ministro si dice felice di aver fatto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Una notizia di politica che sentivate anche nei titoli: Francesco Sicignano, il pensionato di Vaprio d'Adda, che un mese fa ha ucciso con un colpo di pistola un ladro che si era introdotto nella sua villa, anche se anche su questo la dinamica non è ancora chiara, sarà candidato come consigliere comunale nelle liste di Forza Italia per le prossime elezioni amministrative. Lo hanno annunciato oggi a Palazzo Marino i consiglieri del gruppo di Forza Italia nel corso di una conferenza stampa alla quale ha preso parte anche lo stesso Sicignano, e parliamo evidentemente di una candidatura a Milano. Veniamo alla vicenda di Alma Shalabayeva, forse la ricorderete, la donna prelevata nella sua casa romana nel maggio del 2013 con l'accusa di essere entrata irregolarmente in Italia e rimandata nel suo paese, il Kazakistan. Shalabayeva è però la moglie di uno dei principali oppositori dell'autocrate che guida il paese, Nazarbayev. A questo è dedicata l'analisi di Daniele Biacchessi. Tutto accadde in Italia tra il 28 e il 31 maggio 2013. Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, e la figlia di 6 anni vennero fermate in una villa di Casal Palocco, vicino a Roma, trattenute nel CIE, Centro di Identificazione ed Espulsione, trasferite in aereo in Kazakistan. Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, da cui dipende, lo ricordiamo, la responsabilità politica dell'operato e della polizia, disse allora di non sapere nulla di questa espulsione. Arrivò ad un passo dalla sfiducia e a farne le spese fu il suo capo di gabinetto dell'epoca, il prefetto Procaccini, e il capo della segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Valeri. Invece in queste ore la procura di Perugia, titolare dell'inchiesta, ipotizza il reato di sequestro e avvia l'indagine su 8 persone, tra cui l'attuale direttore dello SCO Renato Cortese e il questore di Rimini Maurizio Improta. Una cosa è certa: l'espulsione della Shalabayeva è un fatto illegale, perché la donna, nelle ore in cui veniva espulsa dal nostro paese, aveva documenti in regola, un visto compilato secondo i dettami del trattato di Schengen. Alfano era a conoscenza di questo particolare? Oggi è il Black Friday, il venerdì dopo il Thanksgiving, che negli Stati Uniti dà il via agli acquisti natalizi con una serie di sconti e offerte. 135 milioni di persone sono attese in America ad affollare negozi o siti di shopping online, un appuntamento che però non è più solo a stelle e strisce. Non è più un'usanza solo americana il Black Friday, il venerdì dopo il ringraziamento, che negli Stati Uniti per tradizione grazie ad una serie di super offerte dà il via allo shopping natalizio. Complice la globalizzazione del commercio, la presenza ovunque degli stessi brand e l'allargarsi dell'e-commerce, il venerdì nero è arrivato anche in Italia. Niente a che vedere con le code nella notte e le risse all'entrata made in USA, quest'anno però, per quello che molti indicatori fotografano come il Natale della ripresa, le adesioni al Black Friday si sono moltiplicate. In moltissimi negozi oggi è possibile trovare offerte, dai supermercati alle principali catene di elettronica, passando per i brand della moda low cost e i colossi dell'online. Sul web gli sconti proseguiranno fino a lunedì o culmineranno lunedì per il cosiddetto Cyber Monday, dedicato alle offerte online di prodotti tecnologici. Per il consumatore post-crisi, attento, informato, abituato a comprare online se serve a risparmiare tempo e denaro, si tratta sicuramente di una buona occasione. 7 anni fa, prima della crisi, non esisteva, così come molte delle abitudini e degli atteggiamenti d'acquisto che vi racconteremo a partire da venerdì 4 dicembre. Perché consumi, consumatori e aziende sono cambiati, indietro non torneranno, crisi o non crisi. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo dopo l'appuntamento sulle strade. Parleremo del fronte militare di questa lotta al terrorismo e cercheremo di analizzarlo di nuovo parlando del ruolo dell'Italia. Ci occuperemo ancora della cerimonia di Parigi e di che cosa rappresenta 2 settimane dagli attentati. E poi vi racconteremo la storia di un preside che è stato picchiato alla Dispoli, siamo nel Lazio, da un uomo perché gli ha detto aiuti i romeni. A tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I titoli: a Parigi la cerimonia per le vittime della strage, parla Hollande, dice hanno ucciso in nome di un dio tradito. Dopo l'abbattimento del jet russo, la Turchia ha deciso di fermare i voli militari sulla Siria. Forti piogge investono la Sicilia, un masso si è staccato da un monte sopra Mondello e ha investito una casa, è morta una donna di 88 anni. Ancora polemiche sul ministro Poletti, che ha detto che è meglio laurearsi presto, magari con voti più bassi. Non ho mai pensato che i giovani siano bamboccioni, dice lui. Torna da noi Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa. Gianandrea, bentornato. Grazie, buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, con te per parlare di 2 argomenti. Il primo è questa sospensione dei voli da parte della Turchia sulla Siria, dei voli militari. Secondo te rappresenta un segnale di distensione nei confronti della Russia o c'è altro? Beh, io credo sia un segnale con il quale la Turchia si è resa conto che i russi cercheranno una vendetta, vogliamo chiamarla così. Hanno dispiegato un sistema di difesa aerea basato su missili S-400 che addirittura riesce a vedere con i suoi radar dentro lo spazio aereo turco, e ovviamente qualunque velivolo militare turco si dovesse avvicinare alle basi russe, alla Takia, rischierebbe di poter essere colpito da questo scudo, chiamiamolo così, di difesa aerea russo, e i russi certo se la sono legata al dito all'abbattimento di quel Sukhoi-24, anche alla ricerca di non dargli pretesti per restituire il colpo, vogliamo dire così. Ah, quindi insomma un segnale meno distensivo di quanto non ci apparisse inizialmente. Sì, Gianandrea, sì. Ti vorrei coinvolgere anche sulla posizione italiana. Oggi qualcuno parla di una Germania che va alla guerra, in realtà la Germania ieri ha annunciato che non farà altro che quello che noi già facciamo in Iraq, che l'Italia già fa in Iraq, ossia mandare dei tornado in ricognizione sulla Siria. Però ti vorrei proprio sulla posizione dell'Italia, che cosa può fare l'Italia in questo momento e se secondo te la politica che sta perseguendo il governo, che è una politica piuttosto attendista, è corretta oppure no? Qui abbiamo tutti detto che l'ISIS è il nostro nemico, lo diciamo non da oggi, non da Parigi, lo si dice dall'estate del 2014, quando venne proclamato il califfato e nacque la coalizione in cui anche l'Italia faceva parte fin dall'inizio, ha fatto parte fin dall'inizio, armando i curdi, addestrando i curdi e mandando degli aeroplani. I nostri sono disarmati come i tedeschi che stanno per arrivare. Sai, se si dice di fare la guerra allo Stato Islamico, questa non è guerra, questa è una partecipazione simbolica. L'Italia difende, ha difeso anche ieri nell'incontro Renzi-Hollande questa posizione italiana, e al di là delle sfumature politiche che riguardano l'Italia e anche la Germania, ma anche quei paesi che pur bombardando hanno comunque un impegno militare piuttosto flebile e poco efficace, al di là di tutto questo che è politica, sul piano militare, se nessuno fa davvero la guerra allo Stato Islamico, che è uno Stato vero e controlla, a differenza di Al-Qaeda, è passato un vero territorio con dei confini, beh, se nessuno distrugge, sconfigge, annienta questo Stato diventerà sempre più forte, anche in termini propagandistici e anche in termini di influenza sull'estremismo islamico e quindi anche sul terrorismo islamico che colpisce anche l'Europa. Grazie a Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa, come sempre per la rapidità e la chiarezza. E saluto il nostro Gigi Donelli che mi ha raggiunto in studio. Gigi, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno, un saluto a tutti. Per parlare di questa, non solo di questa cerimonia di stamattina, ma di quello che rappresenta a due settimane dagli attentati, Gigi. Sì, due settimane, naturalmente un risvolto strettamente interno e uno esterno. Quello interno è naturalmente anche il racconto di 15 giorni di soccorso, corse, accompagnamento alle vittime, alle loro famiglie, espressioni anche retoriche e drammatiche come quello all'Union Sacrée, quindi termini che addirittura riportano alla Francia del 1914 e alla richiesta di Hollande di essere uniti, compatti di fronte alla minaccia. Allora, sul piano teorico tutto vero, sul piano pratico non è stato così fin dai primi momenti di fatto del dopo 13 novembre, il primo ad avere messo dei puntini su lei, come diremmo noi, è stato proprio l'ex inquilino dell'Eliseo Sarkozy. Cosa lamentano? Insomma, la risposta non è mai sufficientemente pronta e molti mettono in discussione anche l'operato e la previsione di questi eventi da parte del governo francese. Non dimentichiamo che il governo francese e quindi quello presidenziale di Hollande arriva a questa crisi drammatica sull'onda di una lunghissima crisi di personalità e ruolo. Ma insomma, questo è. E poi c'è il fronte internazionale. Su questo ti volevo portare, Gigi. Il fronte internazionale, intanto siamo passati da una coalizione a un coordinamento. Forse di nuovo le parole hanno un peso relativo, ma ce l'hanno. 15 giorni fa, anzi 14 giorni fa, Hollande ha chiesto una grande coalizione. Ieri sera a Mosca ha ottenuto e ha condiviso questo nuovo concetto. Perché? Perché la coalizione non c'è, perché gli Stati Uniti non hanno la stessa priorità, perché il Regno Unito non ha la stessa priorità, perché l'Italia non ha la stessa priorità. Allora, in questi giorni una grande maratona diplomatica, Parigi ha visto sì effettivamente una risposta forte da parte della Germania e quindi ribadisce una relazione, come dire, su cui si fonda l'Unione Europea stessa, e Mosca che viene progressivamente ritirata e ricoinvolta nella grande scena politica internazionale. In questo caso gli interessi comuni sono molto forti, ma non dimentichiamo che anche ieri sera Hollande ha chiarito nella conferenza stampa di fine incontro con Putin che hanno parlato di Ucraina. Che cosa vuol dire questo? Che si tende a dimenticare che quelle sanzioni sono state poste per l'intervento in Crimea e in Ucraina. Ecco, un Hollande che si muove molto, giustamente, che svolge una grande attività diplomatica e i cui risultati possiamo quantomeno definire incerti. E grazie a Gigi Donelli, anche a Gigi Donelli per questa analisi. Saluto adesso Riccardo Agresti, che è preside degli istituti comprensivi Corrado Melone e la Dispoli 1 di La Dispoli. Buongiorno preside, benvenuto. Salve. Buongiorno a tutti. Abbiamo letto questo titolo in agenzia: aiuti romeni, non sei patriota, preside picchiato a scuola. E questo preside è lei. Ci racconta che cosa è successo? Sì, mamma mia. In realtà tutto è nato da un litigio di due bambine che derivava da una situazione precedente. Allora, per non farla lunga e restringere i tempi, c'è stato un tweet di un politico a livello nazionale che ci ha definito pazzi perché noi offrivamo nella nostra offerta formativa un corso di romeno. Questo ha portato a grosse discussioni anche a livello nazionale e molti a casa ne hanno parlato. E alcuni figli hanno sentito quello che dicevano i genitori e hanno recepito. Per cui quando si è trattato di litigare con una compagna di banco sono usciti insulti di tipo razzista molto pesanti. Le professoresse hanno cercato di calmare la situazione, non ci sono riusciti, si è convocato il consiglio di classe. Nel consiglio di classe presenti i genitori, i rappresentanti, i genitori di entrambe le bambine, Quando la professoressa stava cercando di raccontare cosa era successo, è stata interrotta in malo modo dal papà di questa bambina italiana, con insulti pesantissimi, tentativi di aggressione. Noi professori, io e i professori siamo messi in mezzo, abbiamo cercato di difenderle, abbiamo beccato calci, oggetti lanciati, urla e improperi di tutti i tipi. Ma ciò che è stato più brutto non sono state tanto le, diciamo, le botte che sono arrivate, ma quando la bambina, che era fuori perché sapeva che sarebbe stata sospesa entrambe per il litigio in classe, e sentendo tutto questo rumore, sapendo che c'era anche la madre dentro, è entrata e questo papà si è avventata contro di lei con insulti assolutamente irriferibili e improponibili, cercando anche di colpirla forse, ma comunque non è riuscito ad avvicinarsi. Questa è stata la cosa più brutta che è accaduta. È piuttosto scioccante, evidentemente, sì. presi di quello che è successo. Mi dice una cosa, però, perché avete i corsi di romeno o in romeno? Domande fanno tutti, è perché il romeno e non l'inglese, così anticipo la domanda. L'inglese noi vorremmo farla, ma non abbiamo soldi, cioè l'inglese, il potenziamento inglese noi vorremmo farlo, ma non abbiamo fondi da parte del. Cioè l'inglese, Stato, l'inglese ce l'avete, ma non il potenziamento, diciamo. Vorremmo anche potenziare. Perché il romeno? Perché il romeno? È stato donato dal governo romeno, c'è stato un accordo del 2007 tra dell'allora ministro Fioroni e il suo omologo romeno, con questo scambio di docenti, per cui noi abbiamo una docente di romeno pagata dal governo di Bucarest che fa lezioni di romeno. Noi abbiamo semplicemente inserito in classe, affiancando la maestra, che stiamo parlando soprattutto di infanzia e primaria, quindi nel caso delle medie addirittura non c'era nemmeno questo corso e quindi questo papà o questa ragazzina non aveva nessun motivo per lamentarsi del corso di romeno, per questo dico che ci sono motivi diversi. Ultima domanda che le voglio fare, preside, questo perché voi avete, perché alla Dispoli proprio c'è una comunità romena molto molto fitta. Sì, siamo sul 20-25%. 20-25% della popolazione e a livello questo a livello ovviamente. di studenti dice. Sì, è la stessa cosa, perché la popolazione poi si rispecchia nella scuola, quindi la quantità di stranieri che abbiamo, che oscilla sul 25-30%, la vediamo poi ovviamente anche a scuola, e di questa enorme comunità, molto variata comunità straniera, il numero enorme è di cittadini di origine romena, di prima o seconda generazione. Un'ultima domanda che le voglio fare, faceva riferimento a un politico nazionale, e questo politico lo sappiamo, è Matteo Salvini, perché l'ha detto pubblicamente. Questo genitore ha messo direttamente la cosa in relazione alle dichiarazioni di questo politico nel momento nel quale si è svolta l'aggressione? No, non chiaramente, lui ha soltanto detto che lui è un vero patriota, il suo partito sì che difende gli italiani, non noi come scuola, di certe bandiere che c'erano poi qui dentro, io qui ho bandiere francesi, romene, olandesi, tedesche, perché noi facciamo gemellaggi con vari paesi europei, e di certe bandiere lui si sarebbe pulito una parte del corpo, vabbè, ma questo lo sappiamo che lo dicono alcune persone. La ringrazio, grazie Riccardo Agresti, preside degli istituti comprensivi Corrado Melone, la Dispoli 1 di La Dispoli, le auguro una buona giornata ed evidentemente un buon lavoro. Noi adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo per sentire cosa succede sui mercati, cosa facciamo dopo. Parliamo con un esperto di sicurezza informatica che ci spiega se ha un qualche senso ragionare sull'intercettazione delle chat delle PlayStation 4 e poi parliamo con Maurizio Croce, assessore al territorio e all'ambiente del comune di Palermo, sui danni provocati dal maltempo, questa morte di una donna, un masso si è staccato da un monte sopra Mondello, è caduto su una casa, una donna è morta, il punto è che 4-5 anni fa successe più o meno la stessa cosa, per fortuna senza vittime, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In primo piano la cerimonia a Parigi per le vittime della strage. Hollande dice: risponderemo cantando più canzoni, andando ai concerti e agli stadi. Hanno ucciso in nome di un dio tradito. Secondo il tabloid tedesco Bild, le armi della strage sarebbero intanto arrivate dalla Germania. C'è stato un arresto a Stoccarda. Dopo l'abbattimento del jet russo, la Turchia ha fermato i voli militari sulla Siria. Erdogan e Putin si sarebbero sentiti al telefono, ma non è chiaro, almeno ci sarebbe stata una telefonata, ma non è chiaro se i due si siano sentiti e non è ancora chiaro nemmeno se si incontreranno. Sono forti piogge che hanno investito la Sicilia, un masso si è staccato da un monte sopra Mondello, ha investito una casa, è morta una donna di 88 anni. Sicignano, il pensionato che ha sparato ad un ladro e l'ha ucciso a Vaprio d'Adda, sarà candidato di Forza Italia in consiglio comunale. La borsa. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Creo Kitchens. Finalmente la cucina di qualità, ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Effetto giorno. Lo avete sentito, ve lo abbiamo raccontato anche nei nostri giornali radio, ci sono le dichiarazioni di ieri del ministro Orlando che in parte ha anche risposto a domande che arrivavano dai giornalisti che gli chiedevano, ma insomma, dato che nelle prime ore immediatamente dopo la strage di Parigi si è detto, notizia poi rivelatasi falsa o quantomeno non verificata, che i terroristi avrebbero dialogato utilizzando la PlayStation 4, la chat della PlayStation 4, perché è un sistema che è dotato di un crittaggio particolarmente forte, il ministro Orlando ha detto sì, insomma, verificheremo, inizieremo ad intercettare anche le chat e anche quelle del PlayStation 4. Corrado Giustozzi è un esperto di sicurezza informatica e insomma ha collaborazione un po' dappertutto anche a livello istituzionale su tutto questo. Giustozzi, benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Ha un senso tutto questo? La risposta breve è no, non ha molto senso, nel senso che la storia dimostra che la sorveglianza di massa sui i canali qualunque non ha mai portato risultati importanti e a volte non è neanche possibile farla, quindi è molto meglio magari andare a vedere qualcosa di mirato. Perché è un po' come una pesca a strascico, insomma, tiri su con la rete, però se non sai selezionare i pesci, se non sei in grado di selezionarli, hai solo questa grande massa di dati e non riesci a tirare fuori quello che ti serve, no? Questo è il grande sogno degli analisti di intelligence da quando esistono reti di comunicazione e computer importanti, che da 20-30 anni a questa parte si sogna di poter evitare di andare a fare attività di intelligence sul territorio, potesse rimanere, diciamo, dietro una scrivania con la tastiera del computer che analizza tutto quanto. Varie dimostrazioni sul campo hanno fatto vedere che non è esattamente così. Da un punto di vista strettamente teorico, posto che questa notizia della PlayStation 4 che è circolata nelle prime ore dopo l'attentato, ripetiamo, si è non verificata o addirittura falsa, in linea teorica può essere uno strumento utilizzato o vale come tutti gli altri strumenti? Allora, il problema è di solito soprattutto trovare uno strumento che passa inosservato. Quindi più che per la sua robustezza, diciamo, la protezione crittografica, i terroristi ma anche i criminali cercano di parlare su canali che passano sotto l'attenzione. Il pizzino è molto più efficace della telefonata cellulare proprio perché si nasconde meglio, più insospettabile. Poi qualunque canale è intercettabile, qualunque crittografia è forzabile. Diventa solo un problema di tempo e di mole di dati che spesso sono veramente difficili da gestire. Lei diceva qualsiasi sistema è intercettabile, in realtà quindi teoricamente l'intelligence gli strumenti già ce l'ha, non ne servono di nuovi, dico, né legislativi né tecnologici. Legislativi assolutamente no. Tre anni fa l'Unione Europea si è dotata di un documento formale di cyber strategy, strategia per la protezione dello spazio cibernetico. Nelle premesse l'Europa dice che non c'è alcun bisogno di nuove leggi, di leggi speciali, perché le stesse leggi che si applicano alla vita di tutti i giorni si applicano al cyberspace. E anche tecnologicamente non c'è bisogno. I governi avanzati hanno già a disposizione elaboratori così potenti da fare cose fino a qualche anno fa impensabili. Si stima, e probabilmente è vero, che l'NSA ha la capacità di registrare tutto il traffico telefonico di un'intera nazione per 30 giorni per poi poterselo sbobinare con comodo e andare a vedere che cosa si sono detti tutti i cittadini. Che poi questo venga fatto per davvero è un altro paio di maniche, che serva a qualcosa è un ulteriore paio di maniche. E grazie a Corrado Giustozzi, esperto di sicurezza informatica. Se volete qualche dettaglio su di lui lo trovate facilmente in rete. Grazie davvero per averci aiutati. Maurizio Croce, assessore al territorio e all'ambiente del Comune di Palermo. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, della Regione Siciliana. Della Regione Siciliana, chiedo scusa. No, prego. Vorrei sapere un po' com'è la situazione, perché abbiamo letto i grandi piogge, c'è stata una vittima a Mondello. Ci dà un quadro di qual è la situazione? La situazione è in questi termini: a Mondello c'è stato il distacco di un masso di grosse dimensioni su un versante che è caduto su una villa che risale agli anni 50, attualmente costruita in questo versante, che comunque è un versante ricadente nelle zone ad alto rischio idrogeologico, che è inciso e ha, diciamo, causato la morte di una donna di 88 anni che era dentro la villa. È un ferito, a quanto capisco. Qualche anno fa era già successa la stessa cosa, per fortuna senza vittime, assessore. Era successa la stessa cosa nel 2009. Ora sto verificando con i miei uffici, perché sembrerebbe che ci sia stato, a seguito di quel primo episodio, ci sia stato un finanziamento dato direttamente al comune di Palermo. C'è una procedura di gara che attualmente è sospesa per un ricorso al TAR. Un classico ricorso al TAR. Che è gestita direttamente dal comune. Quindi stiamo cercando di fare tutti gli accertamenti e le verifiche per capire esattamente di cosa si tratta. Per il resto, complessivamente, la situazione è tranquilla, assessore? Per il resto, complessivamente, diciamo, c'è chiaramente questo versante che è instabile, è totalmente instabile, ma così come, diciamo, il problema del rischio idrogeologico riguarda tutta la regione siciliana. Abbiamo avuti eventi diversi negli ultimi mesi. La regione siciliana sta cercando di reperire tutte le somme per poter far fronte in maniera massiva a questo problema che oggettivamente è un problema che riguarda l'Italia e la Sicilia in particolar modo, vista la natura geologica e geomorfologica dell'isola. Grazie Maurizio Croce, assessore al territorio e all'ambiente della Regione Sicilia. Dunque, noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, poi c'è il nostro Mario Platero, ci ritroviamo alla fine per i saluti.